La pancia borbotta, sed panciam borbottam, non so. Però da Patrizia dovremmo andare, perché le tende di casa mia e di casa tua fanno pietà. No, allora le mie no, perché sì. Ho appena ristrutturato casa, quindi non le hai viste. Non cominciamo a dare dei giudizi proprio... inappropriati. Antonio, no, sono belle. Antonio, così, Patrizia, così, un salutone. Le, le tende di Deborah, devo ma dire, sono vero, così. Ma così. Non è vero, Giulio, Giulio, buongiorno. Buongiorno, dottoressa Nicoletta, buongiorno, dottor Gargiulo e la nostra cara Deborah, buongiorno a tutti. Buongiorno. Io non sono dottoressa, sono infermiera. Buongiorno. Meno male, meno male, meno male. Mezz'ora di passo sostenuto al giorno toglie la caldana di torno. Sforneremo dei proverbi da questa trasmissione che non oso neanche immaginare. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Cara Nicoletta, l'Italia è un paese di vecchi, di nonni. Perché guardi me? No, ma no, io ti sto guardando perché tu il tuo dovere l'hai fatto per tentare di arginare questo problema. Due figlie ce l'hai, io invece non ho proprio contribuito a svecchiare il paese. È vero, ho dato un contributo, ma perfettamente nella media. Come si dice, non mi sono spinta oltre. La mia non è una famiglia né maxi né spaziale. Stai parlando di gelati o di taglie forti? Parlo di famiglie numerose, perché è così che vengono classificate in base al numero dei figli. E di famiglie numerose, come abbiamo anticipato, parleremo oggi a Cuore Denari. In studio con noi il presidente dell'Associazione Famiglie Numerose, Giuseppe Butturrini. Buongiorno. Buongiorno presidente. Allora, di che parleremo oggi grazie al suo contributo? Com'è questa esperienza? Ce l'anticipa in 30 secondi? L'esperienza delle famiglie numerose, partendo dalla nostra, è stupenda. Partendo perché in studio da quello, c'è anche sua moglie, lo segnaliamo moglie, subito, Raffaella. Raffaella. Buongiorno. Noi abbiamo 10 figli. Il decimo è in affido, è uno scinti, ma la nostra esperienza è stupenda, è stupenda. E se poi in questo momento guardo i volti delle famiglie, i volti delle persone che abbiamo incontrato girando per l'Italia, problemi ce ne sono. Però ma si superano. C'è la serenità. Ci sono sprazzi perlomeno di speranza. Volevi dire? Giuseppe dice che abbiamo problemi, ma problemi di vita. 800240024, vivete in una famiglia numerosa, provenite da una famiglia numerosa, quali sono le vostre difficoltà e raccontateci anche i vantaggi nella vita di tutti i giorni per il cuore e per i denari, insomma l'unione fa la forza, è davvero così? È vero, ma i figli sono una risorsa appunto straordinaria e ad essere in tanti ci si guadagna perché appunto come diceva Nicoletta l'unione fa la forza, ma direi che produce anche benessere. È così Alberto Pellai, perché tu sei padre di una famiglia numerosa, anche se, come dire, i tuoi figli sono solo 4, però ti godi i vantaggi di questa condizione. Ah sì, buongiorno a tutti, decisamente mi godo i vantaggi, potrei dire tanta energia, molta allegria, poca noia, si rimane molto con i piedi per terra, si fa certamente molta fatica, tantissimi conti da pagare, una cosa che abbiamo scoperto io e mia moglie, comunque non si soffre di insonnia, perché quando si va a dormire alla sera si crolla. E devono forse averla pensata in questa maniera anche i signori Bruzzone di Savona, noi ne abbiamo letto i giorni scorsi la loro storia sulla stampa e da lì è venuta a me Nicoletta l'idea di organizzare una trasmissione su questo argomento. Loro di figli ne hanno 10. Quindi possono giocare a calcetto un po' 5. Come nella famiglia Butturini, adesso naturalmente con il tutto rispetto per queste battute anche che facciamo, probabilmente possono fare anche qualcosa di più a Catanzaro, dove c'è una famiglia che di figli ne ha ben 16. Ma il nostro paese sostiene con politiche adeguate queste famiglie? Lo chiediamo ad un altro ospite che è Francesco Belletti, direttore del CISF, Centro Internazionale Studi Famiglia. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a voi. No, di fatto questo è un paese che sembra costruito contro la famiglia numerosa, sembra quasi che un nuovo figlio venga a consumare il paese, e questo è poi confermato dal drammatico dato sulla natalità che ha ampiamente al di sotto del tasso di sostituzione, quindi il paese invecchia e soprattutto anche solo sui giovani, non solo sui bambini, è un paese che non riesce a spostare le risorse a favore del futuro e delle nuove generazioni. 349-238-6666. Potete come sempre scriverci, seguirci su Facebook e su Twitter. Quali sono le piccole e grandi difficoltà in cui vi imbattete con la vostra famiglia? Una premessa ed obbligo, Deborah, non è necessario avere 10 figli per intervenire oggi in trasmissione. Quali sono le piccole e le grandi soluzioni che avete trovato per gestire la vostra vita quotidiana, tenendo conto che a volte si nasce figli unici e poi per le vicende familiari ci si ritrova nelle famiglie allargate con una truppa di fratelli acquisiti? I problemi sono gli stessi, ma parleremo anche di questo. E Deborah. Allora, i figli sono tanti, il tempo è poco, quindi direi di cominciare. Essere e benessere. Il fratello era più alto, più muscoloso, più intelligente, correva fortissimo, correva sugli alberi, faceva tutto lui. E mia madre complice, comprava tutto nuovo. Un giorno, una domenica, mio padre lo nominò fratello maggiore, mi mise i gradi qui. Io fratello semplice, lui fratello maggiore. Lui tutto, io niente. E mia madre comprava il golfino, e la camicina, e la bicicletta, e il pantaloncino, tutto nuovo, golfino a V nuovo, io non ho mai avuto un golf con l'etichetta. Giuseppe e Raffaella, siete venuti da Padova, avete preso il treno stamattina per essere qui con noi gli ascoltatori di Cuore Denari. Noi siamo davvero felici, siamo commosse, ma siamo anche un po' incuriosite. Ne parlavamo con Deborah intanto che vi aspettavamo per prendere il caffè della mattina. Con 10 figli abbiamo chiesto, ma come faranno? Spesso basta un figlio solo a legarci mani e piedi, e quindi evidentemente voi, oltre a essere super genitori, siete anche super organizzati. Giuseppe. Cedo la parola a mia moglie, che è super organizzata. Io qualche volta mi lascio prendere dalla paura, non so come fare, ma interviene lei. Raffaella. Sì, beh, l'organizzazione direi che sta alla base della famiglia numerosa, cioè è fondamentale, altrimenti si rischia di fare dei pasticci. Però devo dire che anche l'organizzazione si impara, cioè man mano che arrivano i figli, man mano che arrivano le cose da fare, un po' alla volta tutto va a posto come la tessera di un puzzle. Questa mattina ci siamo svegliati presto, uno dei nostri figli, il piccolo, era già in doccia e poi ha preso la sua bicicletta, è andato a prendere l'autobus perché sta in giro un'ora prima di arrivare a scuola. E poi ce n'erano due in corsa per accompagnarci alla stazione e se la sono giocata stamattina alle 6:30. E quindi tutti in moto? No, c'era qualcuno che stava a riposo, poi qualcuno che si sarebbe preso cura della zia quando la zia alle 8:30 scende giù e quindi ha bisogno di qualcuno che le metta la dentiera, che le prepari la colazione, ma i ragazzi sono ben organizzati e bravi a fare anche questo. Quattro comunque sono già sposati, per cui sì, non c'era bisogno di metterli a posto. Bene, avete gestito quindi solo 6 figli oggi. Toglietemi un'altra curiosità: genitori di famiglie numerose, si nasce o si diventa? In altre parole, voi vi siete sposati con questo progetto oppure figlio dopo figlio li avete accolti, sì, e vi siete trovati una tribù? Noi veniamo da una famiglia numerosa, sia mia moglie che il sottoscritto. Quando si parlava qualche volta si diceva, beh, con 4 si può arrivare, 4, 5, e poi sono arrivati, direi tutti sono stati accolti, e noi a ciascuno di loro diciamo siete figli unici, ognuno è figlio unico. Qualcuno è stato cercato obiettivamente, ma la cosa più bella è che nessuno si è sentito mai uno in più. E mi ricordo uno dei nostri figli che diceva, vedendo la gioia che avevano, che avevamo quando la mamma, quando c'era il pancione, vedendo la gioia che c'era in noi, che c'era negli altri, uno di loro dice, ma allora noi vi portiamo gioia, non siamo un peso per voi, uno in più, non siamo uno in più, siamo veramente qualcuno che vi dà gioia. Alberto, prima di sentire Alberto, Deborah, abbiamo degli ascoltatori che vogliamo... Abbiamo già due ascoltatori pronti a condividere con noi la loro esperienza di vita, che è andata appunto nello stesso senso della quale stiamo raccontando questa mattina. Comincerei con Franco da Roma, all'800240024, poi abbiamo anche Giulio dalla provincia di Brescia. Quindi Franco, buongiorno. Buongiorno a lei. Senta, io porto la mia esperienza non come genitore ma come figlio. Sì. Beh, praticamente io vengo da una famiglia in cui siamo 6 fratelli, vero? E non è certamente tutte rose e fiori, perché magari fra i primi e gli ultimi, all'ultimo c'è molta differenza di età, anche 15-20 anni, il che implica una mentalità diversa, un vissuto diverso col quale poi uno si deve relazionare nell'ambito della fratellanza, diciamo. E poi voglio dire anche, insomma, alla fine va a finire che per questa differenza di età quasi quasi l'ultimo potrebbe essere il figlio di uno dei primi. È quello che è successo, Franco, le racconto l'esperienza di casa mia, mia mamma, che è l'ultima di 10 figli, ed effettivamente con il primo, che era in guerra quando lei è nata, ci sono 23 anni di differenza, quindi capisco insomma quello che vuole dire. E poi voglio dire, alla fine va a finire che i problemi di uno diventano immediatamente anche i problemi degli altri, a meno che uno non sia non curante, a meno che uno non se ne buggeri, alla fine sei coinvolto altre 5 volte, una volta per uno, una volta per l'altro. Insomma, tocca un po' per uno. Chiederei soprattutto questo quando uno viene da una famiglia povera. Certo. Grazie, 800240024. Alberto, voi vi siete fermati a 4, ma siete a tutti gli effetti una famiglia numerosa, vero Raffaella? Basta avere 4 figli, bisogna avere almeno 4 figli per essere considerati famiglia numerosa. E tu stesso provieni da una famiglia numerosa perché siete in 4 fratelli. Oltre a questo sei medico e sei psicoterapeuta, insomma hai tutte le carte in regola, Alberto, per esperienza e per formazione, per fare un bilancio. Ci sono dei pro e dei contro a essere in tanti. Dal punto di vista dei genitori, cosa significa essere papà e mamma di tanti figli, ma anche dal punto di vista dei figli, che cosa significa crescere in un gruppo? Ma io credo che come genitori, come coppia di adulti, avere tanti figli implica immediatamente una sorta di parificazione dei ruoli, cioè non puoi avere tanti bambini in casa, non puoi avere tanti figli se non attivi molto bene le competenze materne e paterne. Quindi in moltissimi casi la coppia uomo-donna di una famiglia numerosa è spesso una coppia dove per esempio l'uomo è molto più coinvolto, molto più attivo, direi molto più competente su tante funzioni proprio della vita familiare. Che complimenti le sta facendo, Giuseppe? Grazie. Un po' di parte, Alberto, non ti allargare così, non sostenere solo i papà, che tu sostieni con i tuoi cerchi del papà. No. Però se tu ci pensi, le mamme, le coppie che hanno dei gemelli, automaticamente si trovano in un tempo istantaneo un po' nella stessa condizione, cioè i papà di bambini nei parti gemellari, i papà da subito fanno molto vedere quanto importante è anche la funzione paterna e quanto si devono mettere in gioco nelle funzioni molto concrete. Chiaramente poi, come diceva l'ascoltatore, far convivere più figli sotto lo stesso tetto è una grande risorsa per migliorare competenze come l'autonomia, la cooperazione, far proprio un po' funzionare i tuoi figli come una squadra. Allo stesso tempo però per un figlio il rischio rimane, uno quello dell'invisibilità, cioè è molto difficile magari per un figlio sentire che ha un'attenzione specifica di cui ha molto bisogno nei primi anni di vita, e in questo senso per esempio una variabile è quanto ravvicinate sono fra di loro le nascite dei figli oppure quanto distanziate, per esempio un tempo di 2 anni tra un figlio e l'altro è già un tempo sufficiente per permettere ad ogni bambino di avere quella quantità di attenzione che probabilmente poi gli mette dentro una base sicura. Infatti Giuseppe diceva ad ogni figlio diciamo sono figlio unico. Deborah, leggiamo anche i messaggi che sono un po' controcorrente. Allora sì, esatto, devo dire che non tutti vedono in maniera così, come dire, poetica la questione della famiglia numerosa. C'è un ascoltatore estremamente polemico che dice: per carità, famiglie numerose, bulimia da figli, una patologia psicologica, solo egoismo e fanatismo, volete dei figli, volete fare del bene, adottate. E c'è chi fa comunque questo, e anche pratica anche l'adozione naturalmente all'interno del nucleo familiare. Roberto invece affronta il tema, come dire, dei 7 miliardi di persone che ci sono sul pianeta. Scusatemi, dice, ma nel momento in cui sul pianeta siamo oltre 7 miliardi, indicare con compiacimento la bellezza di 10-16 figli, non dico che sia da criminalizzare come in Cina, ci mancherebbe, ma da qui ad indicarlo come un modello fantastico di gioia ne passa. Mi pare che nessuno abbia neanche voluto dare un indirizzo, come dire, di questo tipo, ma Francesco Belletti, esatto, comunque no, ma mi piaceva anche affrontare con lei un altro aspetto, il tema economico. Quanto frena le famiglie italiane dall'ampliare il nucleo familiare? Perché magari molti hanno questa vocazione, ma ci pensano 200.000 volte prima di farlo, perché ma tutti non i dati... ci sono i nonni, magari non ci sono i supporti. Tutti i dati dicono che gli italiani vorrebbero un figlio in più di quello che, hanno, ed è proprio una delle pochissime variabili su cui il nostro è un paese che non soddisfa i desideri e che non se lo dà come un obiettivo. È vero, quindi, anch'io avrei voluto avere tre figlie femmine, ne ho due. Niente maschi? Non è... No, maschi non... Io sono a tre, ho un maschio e due femmine, quindi mi ritengo sufficientemente coinvolto. Sì, quindi... maschio o femmine, insomma un figlio in più mi sarebbe piaciuto molto. Ma non è proprio un dato di tutte le indagini, quando si confronta il dato tra quanti figli avresti voluto, quanti figli gli vorresti e quanti figli poi di fatto si arriva ad avere, e questo è un oggettivo vincolo delle condizioni strutturali, cioè mancano le infrastrutture sociali che consentono di cogliere serenamente questa sfida, questa scelta di accoglienza. L'Italia è un paese per vecchi, non per famiglie con molti bambini. Ecco, non siamo liberi, però volevo collegarmi alla Cina, perché c'è un'ampia letteratura sociologica sui Little Emperors, cioè sul fatto che la politica, diciamo, feroce del figlio unico ha generato dei piccoli principi che in ambito aziendale fanno una gran fatica a lavorare in team. Cioè il problema è anche la costruzione di culture cooperative, non solo competitive, di culture di sviluppo organizzativo. Insomma, il modello cinematografico della famiglia numerosa è la famiglia von Trenck, tutti insieme appassionatamente. Allora, togliendo il fischietto del comando, ma l'idea è che comunque è un sistema organizzato, così come è un sistema organizzato l'azienda. Vedi che film potevamo prendere ieri, non ci è venuto in mente. Brava, la prossima volta lo sentiamo prima. Vengo da una famiglia di 5 figli, ho deciso di avere solo un bambino perché la prospettiva odierna non ti permette di programmare la vita serenamente. Infatti con Deborah volevamo appunto confrontarci con i nostri ascoltatori per chiedere, lei che è la donna di denari, avete rinunciato a progettare, a programmare una maternità proprio perché facendo i conti vi sembrava un'impresa un po' azzardata? C'è un'ascoltatrice che pone il problema del lavoro. Esistono mamme che lavorano con tanti figli, si chiede, perché c'è il punto interrogativo al termine di questa frase. Non credo, perché dopo due figlie fatte dopo i 35 anni sono abbastanza. Raffaella Butturini, lei ha lavorato? Sì, io ho lavorato fino al sesto. Poi sono stata volentieri a casa con i miei ragazzi. Abbiamo comunque mamme che lavorano e che fanno anche lavori infermieri, quindi con i turni, eccetera. Sicuramente c'è una discriminazione da questo punto di vista per le mamme che lavorano. Come generalmente oso dire che c'è comunque una discriminazione nei confronti della famiglia numerosa nel nostro paese, e questo si è potuto vedere anche dai messaggi che sono arrivati. A me più di qualche volta succedeva, quando avevo i bimbi piccoli: signora, sono tutti suoi, ma si vergogni, non si rende conto che sta inquinando il paese con tutti questi pannolini. Abbiamo trovato l'esperienza di un medico inglese che sostiene la stessa cosa. Che dice che i bambini inquinano. Probabilmente sì, però è anche vero che se oggi tanti di voi che lavorano avranno la pensione domani, saranno per i nostri figli che lavoreranno e che pagheranno le vostre pensioni. Per cui penso che ci sia sempre una legge della compensazione. Sicuramente io vedo anche nei nostri figli che vedo la difficoltà. Allora, noi avevamo la vita più facile ai nostri tempi, cioè i giovani erano in una realtà di vita più facile, nel senso che si trovavano case in affitto, che l'affitto era al massimo un terzo dello stipendio oppure il mutuo, per cui si poteva anche pensare di poter mantenere una famiglia con uno stipendio. Oggi per forza devono lavorare in due se questi giovani vogliono fare famiglia, perché lo stipendio o il mutuo, cioè l'affitto o il mutuo, è praticamente pari a metà stipendio abbondante, direi. No, a uno stipendio, dalle parti nostre uno stipendio. Ha ragione, è vero. 900 euro che è lo stipendio di un base di un operaio, di uno, e l'affitto o il mutuo sono tra gli 800, da 700-800 euro al mese, quindi sicuramente oggi ci sono queste difficoltà. Però è anche vero che le difficoltà non ci fermano. Alla fine probabilmente noi abbiamo anche delle risorse all'interno della famiglia tali per cui, e poi comunque abbiamo la speranza, cioè io credo che quello che ci contraddistingue è che siamo persone di speranza nonostante tutto. Tiziana dalla provincia di Verona, buongiorno. Buongiorno a voi. Ci dice qua. Sì, Tiziana, ci sente? Tiziana, Sì, vi sento. È in diretta, ci racconti un po', è figlia di una famiglia numerosa o ha tanti figli? Sì, una famiglia numerosa di altri tempi, nel senso che io sono nata nel 48, una famiglia di 5 figli, allevata, figli nati e cresciuti a Milano, le nostre case sono sempre state d'affitto, però mamma e papà ci hanno sempre fatto studiare. E la testimonianza che volevo fare derivava dal fatto che questi affetti, che forse quando eravamo piccoli, adolescenti e poi qualche anno dopo erano magari un attimo distratti, adesso che gli anni passano, io sono la più piccola di questi 5, sì, gli affetti si sono molto rinsaldati e diventano dei piccoli patrimoni, dei piccoli tesori per la nostra vita. Ottimo, Tiziana, grazie. Sentiamo che cosa ne pensano i nostri ospiti. Francesco Belletti, che vedevo che annuiva con soddisfazione, insomma, rispetto a questo pensiero. Considerare gli altri degi ostacoli, dei nemici, dei competitori per una fetta di torta è la cosa peggiore da fare oggi nella nostra società. Quindi vedere l'altro come una risorsa e nei legami di fratellanza, le relazioni familiari, nel nostro paese si trova lavoro per relazioni familiari, si viene sostenuti quando si è indebitati, si viene sostenuti quando si è malati, insomma. Però Walter da Genova ci scrive: siete veramente ipocriti, con i costi attuali solo i ricchi possono permettersi più figli, voi di Radio 24 dovreste certo saperlo bene. Chissà per quale motivo. Insomma, i figli costano, però c'è anche un tema che è scelte di stili di vita, di sobrietà, la battuta comica che sentivamo prima sul fatto che un terzo, quarto figlio magari non ha mai un maglioncino nuovo, dice anche di una certa scelta. Quindi è vero che sicuramente all'interno del pacchetto famiglie numerose la variabile reddito è una variabile rilevante ma non decisiva, e questo è un problema, certo, è una scelta. Sono Laura da Como, io sono una nuova finta libera professionista, ho 28 anni e se rimango incinta mi lasciano a casa ancora 2 anni però, e poi lo faccio anche senza lavoro, un bambino. Va bene, andiamo ai mercati. Chiudiamo con questa bella notizia, allora sì, aspettiamo il bambino. Il bambino di Laura da Como fra 2 anni e poi rifaremo un'altra trasmissione. A tra poco. Cuore e denari. Cioè mettiamo che io e suo figlio che come gli ammazzo. Ma io non ci ho ancora pensato. Massimiliano. No, per carità, quello Massimiliano. No, guarda, chiamiamo. Cioè io avevo pensato Ugo. Come tuo padre? Sì, ma no, per mio padre. Cioè a me non mi importa proprio che sai. No, è proprio perché così io voglio venire più educato. Ma perché Massimiliano? Massimiliano viene scostumato. Cioè lo so, è proprio un uomo che è scostumato. Perché Massimiliano, io sento sempre, per esempio Massimiliano sta vicino a mamma, suo vagliolo, e si muove per chi ha qualche parte. Ah mamma, prima che lo chiami, tu Massimiliano! Guardiano già che sta addosso che sta facendo, non ubbidiscono perché è troppo lungo. Invece Ugo, poi lo chiamo Ugo, quello come sta vicino alla mamma, questo sta per muovere, Ugo, guardiano non aveva nemmeno tempo, capì? Può fare un passo, però Ugo ha dato una per forza, perché lo sento un nome. Al massimo proprio, ecco, volendo, mi chiama Ciro, è più lunga, ma proprio per non fa venire troppo represa, sennò, però Ciro da un tempo pigliano poco l'aria. Tanti figli, nomi corti, così arrivano subito e poi si ricordano meglio. Raffaella, siamo qui oggi a parlare insieme naturalmente a Deborah delle famiglie numerose, insieme a tanti ospiti. Il problema dei nomi non è mica un problema da sottovalutare. Chissà quante volte ti sarai sbagliata a chiamare un figlio con un altro. Ah, mi sbaglio sempre. Però ci si fa una gran risata in casa, insomma. Ma non è un... Li chiamo sempre tutti prima di chiamare quello giusto, però. E quindi questo. Problemi. Qualche Ugo ci deve essere, se no si allontana. 800 24 00 24, quando vogliamo leggere dei messaggi, ce ne sono diversi. Deborah, ma ragazze, mio figlio che ne ha 2, ci chiama ragazze, sì, quindi già ci piace. Claudia da Genova. Fa una fatica orba arrivare a fine mese, lavorano entrambe. Come fanno chi ne ha 10 o 16? Dove li mettono quando vanno al lavoro? Devo dire che c'è molta curiosità, anche forse un po' morbosa, rispetto proprio al sostentamento economico delle famiglie molto, molto ricche, molto nutrite, molto numerose. E Belletti, vogliamo fare un commento su questo? Effettivamente la famiglia più numerosa d'Italia, 16 figli, vive a Catanzaro. Noi qualche volta quando parliamo della Calabria, insomma, ci sembra di parlare di un territorio in grande difficoltà come gran parte del meridione. Effettivamente non è un problema forse sarà anche una curiosità morbosa, però è una curiosità legittima. Sì, c'è anche una famiglia a Milano con 14 figli. Ah, sì? Quindi qualche eccezione statistica. Ecco, intanto segnaliamo che sono diventate eccezioni statistiche anche le famiglie con 3 figli, che una volta erano una normalità statistica. E poi ovviamente il tema del costo dei figli mette al centro della discussione fondamentalmente l'idea se i figli sono un bene pubblico o una scelta solo privata. In sostanza si sente molto dire: hai voluto un figlio, te lo curi tu. Ma è possibile davvero che una società non investa sulle nuove generazioni e non sostenga chi scommette la propria vita sulle nuove generazioni? E quindi la nascita di un figlio impoverisce una famiglia, e neanche una famiglia maxi, una famiglia standard, del 25-30%, perché i costi ci sono e manca il riconoscimento che questa è una scommessa condivisa. Quindi la richiesta di fisco, di politiche fiscali, di detrazioni, di sostegno diretto, non è una politica assistenziale, è una politica di investimento sul capitale umano. E sul paese stesso, direi. Sì, Nicoletta, tra l'altro, allora sentiamo anche un altro ascoltatore. Mi piace, dai. Sì, andiamo a Michele da Milano, allora. Michele, buongiorno. Sì, buongiorno. Sì, ci racconti un po', come la vede? Io la vedo così, che sono il secondo figlio di una famiglia numerosissima di 10 figli. E per me non è stata un'esperienza bellissima, nel senso che voglio sgombrare un po' il campo da questioni affettive, nel senso, noi fratelli ci vogliamo tutti bene, vogliamo tutti molto bene i nostri genitori, sì. Però nessuno a me ha chiesto se volevo tanti fratelli, per cui siccome il fratello che dopo di me è nato quando io avevo 5 anni, io l'ho presa malissimo questa nuova nascita, come ho preso malissimo tutte le volte che vedevo mia mamma incinta. Ora, perché era comunque una distrazione dell'attenzione verso di me, un essere, un numero a un certo punto e non più un figlio. Il dovere occuparmi per forza, per affetto, ma anche per l'educazione che ci veniva data in casa dei fratelli più piccoli, tutto questo in una famiglia fortunatamente facoltosa. Michele, lei dà molti spunti ad Alberto. Grazie. Pellai, grazie Michele per essere intervenuto. Alberto, io ti vedo, avrai preso nota e scritto qualcosa, commento dell'intervento di Michele, che ci racconta il punto di vista di un figlio di un secondo genito, che magari si trova a vivere in una famiglia numerosa che lui non ha scelto, in fondo, no? Sì, quello che ci dice Michele è forse che la sua sofferenza consiste nel non aver mai sentito che c'era proprio un posticino specifico tutto per lui, un'attenzione tutta per lui, ed è così nelle famiglie: c'è una sorta di relazione verticale, che è quella che i genitori hanno con i figli, e poi c'è una relazione orizzontale, cioè quella che i tanti figli hanno fra di loro diventati fratelli. In generale ai genitori si consiglia poi tanto di sviluppare proprio la dimensione della cooperazione, che non è soltanto prendersi cura del fratello minore, ma trasformare in una squadra che fa cose insieme, ma che si diverte anche molto insieme, che ha tanto piacere da condividere insieme. Cioè, il racconto di Michele forse è molto spostato tanto sulla dimensione del dovere e poco sulla dimensione del piacere. A proposito, scusami, di dovere, stavamo forse leggendo lo stesso messaggio. Vai, quello Deborah. Di Diego, sì, perché dice che i figli unici imparano il concetto di diritto, mentre se hai tanti fratelli impari il concetto di dovere. Giuseppe Buttorini, è così? Direi di sì, più che del dovere, del piacere di stare insieme, di lavorare insieme. Il fatto che si sentano, che ciascuno senta la sua unicità, non è per separarsi dall'altro, ma è per poter mettere insieme le caratteristiche che ciascuno ha. La nostra esperienza non è come quella di quel, di, come si chiamava, Michele? Sì, da Milano. Da Milano, è diversa, Michele, la nostra esperienza. Per carità, ogni esperienza va rispettata. Io mi sento profondamente di rispettare la tua esperienza e non sarò capace di entrare nella tua sofferenza, però la nostra esperienza è stata, come dire, diversa, nel senso che la fiducia che i figlioli ricevevano dai genitori la trasmettevano ai loro figli, per cui è vero, non c'è soltanto il rapporto dei genitori, dei figli con i genitori, ma è importante che i genitori sappiano poi creare un rapporto verticale, per cui noi vediamo nei nostri figli la capacità di relazionarsi dentro e di relazionarsi fuori, il senso del limite che hanno non come un dovere imposto, ma come un dono che possono fare all'altro. Quante volte è successo che un figlio dice: ma papà, siamo in 7, non siamo in 5, tu hai fatto 5 parti della torta, ma siamo in 7. L'ho fatto apposta perché qualcuno di voi si accorgesse. Ah. I figli si accorgono di quello che i genitori in quel momento, magari provocando, fanno. È bello. Nicoletta. Andrea D'Antonia che ci chiama da Padova, all'800 24 0024. Buongiorno Antonia, benvenuta. Ci ha abbandonato. Allora forse andiamo a Giulio. Sì, Giulio dalla provincia di Brescia che aspettava da un pochino. Giulio, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Giulio, come sta? Allora, io provengo da una famiglia numerosa. Sì. Eravamo in 10 fratelli. E lei che cosa ha fatto della sua vita? Con esperienze, guardi, in casa mia bruttissime perché eravamo molto poveri. Sì. Mia mamma è sempre ammalata, l'ho sempre vista ammalata, non l'ho mai vista sorridere. E a 10 anni e mezzo sono andato via da casa a lavorare, mi ricordo, adesso ho 68 anni. Sì. Mi ricordo che mio papà mi disse: tu almeno non soffrirai la fame. Ero andato in una forneria a fare il fornaio. Sì. Per 3 anni e mezzo non ho visto mia madre, i miei genitori, i miei fratelli. E quando sono ritornato in casa, la mia vita era sconvolta in un altro modo, no? Vedendo la povertà in casa mia e l'abbondanza che c'era dove lavoravo, che certo, comunque lavoravo molto, mi picchiavano tanto. Stavo male a volte e non avevo nessuno in cui poter dire: papà o mamma, io sto male, mi trattano così. Certo. Cosa? Giulio, perché ha avuto degli altri, si è sposato, ha avuto dei figli? Poi mi sono sposato, abbiamo 4 figli. Quindi ormai anche sposati. Lei, Giulio, una famiglia numerosa, quindi. Sì, 6 nipoti e quando ci riuniamo insieme è una meraviglia. Vede, sto proprio bene con i da grande soddisfazione a Raffaella, che nel sentire il suo racconto è un po' come abbiamo fatto con Debora, a pensarla piccolo, che ritornava a casa e vedeva dopo giornate di lavoro la povertà in famiglia, gli si stringeva il cuore, ma evidentemente nella famiglia ci ha creduto, perché Raffaella ha fatto poi una famiglia, ha composto una famiglia di 4 figli. Certo, sì, bellissimi ragazzi. Sposati con nipoti, quando ci troviamo in casa mia spesso. Insomma, è una festa. Grazie Giulio. Quindi non è poi detto che magari un trascorso particolarmente di sofferenza poi comprometta la scelta di ripetere la stessa esperienza di famiglia appunto numerosa. Raffaella Butturini. Sì, anche se in realtà devo dire che la mia esperienza è un po' diversa, nel senso che io sono la seconda di 4 figli, però i miei genitori si sono separati proprio negli anni 50, che io avevo 3-4 anni. Quindi diciamo che io ho avuto una gran voglia di famiglia e che fino a 20 anni avrei dato 10 anni di vita per vivere almeno un anno in una famiglia normale. Forse questo è il motivo per cui. Quindi la tua famiglia di oggi ha le radici nella famiglia che non hai avuto. Nei disastri un po' della mia famiglia di origine. E io di questo sono contenta e penso che forse. Cioè io posso dirlo, i nostri figli sono contenti di essere in tanti. Abbiamo avuto le nostre difficoltà, hanno sicuramente fatto delle rinunce, però ci siamo anche tanto divertiti. Cioè io la famiglia me la sono veramente goduta. E penso che questo i nostri figli lo abbiano recepito. Mi piaceva quello che diceva il dottor Pellai, perché noi che abbiamo un terzo figlio nato con distacco di placenta e cerebro leso, che ha avuto non gravissimi problemi, è autonomo, i suoi handicap, comunque è abbastanza autonomo, abbiamo avuto un suggerimento proprio quando poi è arrivato il quarto e il quinto da un caro amico che ci disse: sappiate riservare ogni tanto un momento individuale con ognuno dei vostri figli. E direi che questo noi l'abbiamo sempre fatto, abbiamo fatto tesoro di questo consiglio, l'abbiamo fatto, e forse per questo i nostri figli crescendo ci hanno detto: noi ci siamo sempre sentiti figli unici, primo figlio unico, settimo figlio unico, decimo figlio unico. La bellezza, direi, di mia moglie in particolare è stata proprio qui, nel saper avere con ogni figlio un rapporto particolare, una cosa che entro certi limiti, ma continuo ancora adesso. e questo senza togliere nulla a nessuno. Non è una donna che abbraccia tutti senza stringere nessuno, è una donna che abbraccia ognuno, ognuno si sente stretto ma come un fratello. Cuore e denari. Mamma mia, dammi 100 lire che in America voglio andare. Mamma mia, dammi 100 lire che in America voglio andare. 100 lire io te. I figli se ne vanno sempre più tardi di casa, anche se appartengono ad una famiglia numerosa, e non bastano certo 100 lire per essere indipendenti se il figlio inizia a lavorare e contribuisce. Nicoletta, ne stiamo parlando sempre di famiglie particolarmente numerose. 800 24 00 24 per condividere con noi, qualora apparteniate ad una famiglia di questo tipo o intendiate mettere su famiglia, quali sono le esigenze ma anche i vantaggi dal punto di vista del cuore e dal punto di vista dei denari. Stiamo raccogliendo la testimonianza intanto dei presidenti dell'Associazione Italiana Famiglie Numerose, la famiglia Buttorini, alla quale chiedo, poi potete scegliere chi vuole rispondere: i vostri figli, molti sono già indipendenti perché il più grande ha 32 anni, ma come avete gestito questo momento, quindi l'uscita di casa, come li avete responsabilizzati anche in questo senso? Giuseppe Buttorini o Raffaella, chi vuole rispondere? Raffaella. In realtà non è stata programmata, direi che noi abbiamo sempre cercato di essere attenti alle esigenze e ai desideri di ognuno. Quando nostra figlia aveva finito il liceo era incerta se venire a studiare a Milano, se andare a Roma, se restare a Padova con giurisprudenza, e papà disse, beh, chiaramente Padova giurisprudenza, perché sennò ci costerebbe troppo, e invece poi abbiamo detto no, deciderà lei e poi qualche santo ci aiuterà. Quindi lei ha fatto i test in tutte le università e poi ha deciso di restare a Padova a fare giurisprudenza, perché ha detto non sono ancora pronta per andare via di casa. Anche perché per uno che vive in una famiglia così numerosa, poi quando vanno via soffrono almeno di malinconia, questo dobbiamo dirlo, eh? Sì, in realtà poi si è sposata ad alto rischio di malinconia. Si è sposata a 23 anni e l'uscita di casa è stata normale, forse è stata più difficile per me quando la primogenita è andata via. Però effettivamente spesso ritornavano a cena la sera perché dicevano mi sento sola in casa. E devo dire che tu con tutti questi bambini, figli, nipoti, la sindrome del nido vuoto non ce l'avrai mai. Ecco, questa lei è una garanzia. È diventata avvocato tra l'altro giovanissima, è sempre stata brava, ha preso la borsa di studio. I nostri figli si sono più o meno sempre mantenuti l'università lavoricchiando d'estate o lavorando nelle fiere. E però sono contenti e sono realizzati. Arriva un momento in cui il rapporto diventa maturo, per cui decidono, che naturalmente è vario. Il secondo genito si è sposato più tardi perché lui ha finito economia e poi ha trovato il lavoro. Come ha trovato il lavoro ha deciso per il matrimonio, adesso aspetta il secondo bimbo. Ma sono maturate da sole le cose. Il settimo ha detto io mi voglio sposare giovane. E si è sposato. Perché voglio poter... Insomma, non troviamo marito con la famiglia Buttorini, mi sa Deborah. Tanto vabbè. Flavio, dalla provincia di Pavia. Non capisco perché tu mi abbia fatto questa battuta, ma lasciamo stare. Flavio invece ci racconta di un'esperienza radicalmente all'opposto di quelle che stiamo ascoltando questa mattina. Buongiorno. Buongiorno. Allora, siccome figli unici delle volte ci sentiamo un po' discriminati, io volevo dire che io sono figlio unico felice, mia moglie figlia unica felice e abbiamo una figlia che ci sembra felice. Ah, vi sembra? No, Flavio. Da quello che possiamo giudicare noi, sì. Lo sarà, lo sarà, Flavio. Anche perché quando era piccola, faceva le elementari, alle sue compagne nascevano il fratellino, la sorellina, e lei chiedeva, io gli dicevo semplicemente una frase, che forse comincia a capire adesso, le persone che frequenterai in futuro te le sceglierai tu e non ti sono imposte dal destino. Alberto, che commento possiamo fare a Flavio? Dura è questa cosa? Ma io credo che Flavio ha proprio nel suo DNA la caratteristica del figlio unico. Personalmente presumo che come tutte le esperienze nella vita, ognuna ha i suoi pro e i suoi contro, e in generale quando si lavora con i figli unici a volte loro raccontano però anche un po' la dimensione della solitudine, per cui questa deve essere molto compensata poi dai genitori, creando una rete sociale dove i figli hanno molte frequentazioni alla pari. Io nel lavoro di psicoterapeuta sento spesso anche poi il racconto di persone adulte che nella zona tra i 40 e i 60 anni, quando vedono, quando per esempio nella famiglia allargata cominciano a esserci genitori ammalati o molti problemi, sentono proprio la fatica di dover gestire tutto in solitudine e oggettivamente un po' raccontano la fatica di non avere poi un sistema cooperativo tra fratelli che permette di far fronte anche alle difficoltà. Chiaramente questa non deve essere la scelta per avere più figli o meno figli, rimane un dato di fatto che poi l'unione fa la forza, non è un motto tanto per dire. Certo è che quando uno mette al mondo un figlio non pensa a che lavoro questo farà, è anche vero che c'è una ricerca che dice che uno su quattro nella famiglia numerosa deve rinunciare all'università, ce n'è un'altra anche di ricerca tra tutte quelle che abbiamo trovato ieri preparando questo programma che dice che i figli unici fanno più carriera. Francesco Belletti, che ne pensa di tutte queste indagini? Corrispondono alla... Corrispondono, ma parlano di una disuguaglianza, di una mancanza di pari opportunità. Quindi dell'assenza di politiche che garantiscano pari opportunità a chi si trova in una situazione familiare rispetto a un'altra. L'idea dovrebbe essere, come per la pari opportunità tra uomini e donne, tra persone di famiglie povere e persone di famiglie ricche, dovrebbe essere: rimuoviamo gli ostacoli che impediscono ai figli delle famiglie numerose di avere le stesse opportunità del figlio unico. Io credo che è proprio esemplare questo dato, perché dovremmo consentire a tutti di poter giocarsi i propri talenti. E quali sono i passi che permetterebbero di farlo? Quali sono le vostre richieste in sostanza? Ma diciamo, in ambito di politica familiare c'è oggettivamente una drammatica assenza che non riguarda gli ultimi governi, ma riguarda proprio un paese che ha vissuto di rendita sulle famiglie. E quello che manca è proprio la prima cosa è l'equità fiscale, cioè l'idea che si possa sostenere la famiglia con un alleggerimento del peso fiscale che restituisca disponibilità. La Corte Costituzionale tedesca ha detto non si possono tassare i soldi che i genitori devono spendere per educare i figli, per tirarli su, che è un criterio, come dire, di equità fondativa, che è la stessa scelta che ha fatto la Francia col quoziente familiare. Nel nostro paese invece i figli sono a tuo rischio e pericolo, e credo che questo sia il primo passo. Poi una modalità cooperativa tra sistema pubblico e famiglie, per esempio nella scuola, nella sfida educativa. Insomma, una serie di... E poi tutto il grande tema della conciliazione famiglia-lavoro, che sembra... Riguardare solo le donne, invece spesso riguarda anche il papà. E poi soprattutto nelle politiche delle imprese sembra che fosse che sia la ciliegina della torta in tempi di opulenza, e invece bisognerebbe considerarla la variabile strategica su cui rinnovare il patto di produttività tra datore di lavoro e dipendente. E magari supportare anche un po' le politiche di welfare aziendale. Le faccio sentire, fra un minuto dobbiamo chiudere la prima parte del programma, però anche le tesi, le teorie di Rosario da Milano, che da un po' che vuole intervenire ed è perfettamente in linea con quello che ci stava dicendo adesso Francesco Belletti. Rosario, buongiorno, se ce la fa in 40 secondi, grazie. Buongiorno, sarò diretto dopo 25 minuti d'attesa. Ascolti, io volevo intervenire sul fatto che il presidente, credo sia stato il presidente dell'Associazione Famiglie Numerose, diceva che lo Stato non ha avuto mai accortezze per quanto riguarda la famiglia numerosa. Lo Stato è sempre stato latitante sulla famiglia, manca da sempre, da tutti i governi passati e presenti, una politica atta proprio a sostenere le famiglie, i figli. Il nostro decremento demografico che c'è da 30 anni a sta parte è dovuto soprattutto a questo: si ha paura a mettere al mondo i figli. Io ormai sono adulto, ho due figlie grandi, sono diventato nonno da 4 mesi, d'accordo? Non appartengo a una famiglia numerosa, anche se avrei potuto esserlo. Solo che purtroppo, pur piacendomi i bambini, i figli e le famiglie numerose, ci ha sempre pensato un po' su. Cuore e denari. Ed eccoci, siamo tornati insieme. Un saluto dalla donna di cuore di denari che ha sempre il microfono spento, e rientriamo appunto a Cuore Denari, magari salutando Alberto Pellai. Alberto, so che devi andare, perché tra l'altro oggi tutti e quattro i bambini sono a casa. Sì, oggi fanno festa, quindi c'è bisogno di un papà anche più presente del solito. Allora, posso solo fare un ultimo pensiero su quello che ho sentito, perché poi abbiamo sentito storie molto belle e storie magari anche molto dolorose. Io credo che nella storia di ciascuno di noi poi la famiglia è proprio uno spazio di vita dove noi costruiamo i significati che vogliamo proprio presidiare con la nostra esistenza. Alcune famiglie numerose sono un po' senza significato perché sono proprio il risultato di uomini e donne in balia della loro vita, ma ci sono persone che invece sono in perfetto controllo della loro vita e costruiscono il significato della loro esistenza in questo progetto, e questo credo che sia proprio il motivo per cui noi veniamo al mondo. Grazie ad Alberto Pellai. E grazie, buona giornata. Grazie, Alberto. Alberto, grazie molte. Noi stiamo parlando questa mattina anche di come le vite di queste famiglie numerose si intreccino con le leggi del nostro paese. Riprendiamo un po' le riflessioni che faceva un ascoltatore prima della nostra pausa. C'è un tema che si lega a doppia mandata con quello della famiglia e della casa, ne parliamo adesso. Salva Danaio. Era una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina. Non si poteva entrarci dentro perché non c'era il pavimento. Non si poteva andare a letto in quella casa, non c'era il tetto. Non si poteva fare pipì perché non c'era vasino. Francesco Belletti, direttore del CISF, Centro Italiano Studi Famiglia. Il tema della casa è sicuramente molto importante per accogliere famiglie di queste dimensioni. La casa va mantenuta, si calcola, lo calcola proprio l'Associazione Nazionale Famiglie Numerose, che per mantenere un figlio ci vogliano 8.000 euro l'anno, e chiaramente questo figlio va mantenuto perché poi bisogna accoglierlo in una casa degna, ci sono le bollette da pagare, non si tratta solamente di vestirlo, di mandarlo a scuola, di alimentarlo chiaramente. E cosa ne pensa anche, oltre ad una riflessione su questo, di quello che diceva l'ascoltatore in precedenza? Il nostro paese non ha mai fatto nulla di particolarmente significativo per la famiglia, non tanto per la famiglia numerosa quanto per la famiglia in termini generali. Ma sì, anche l'assenza di, dopo il piano Fanfani sulla casa, praticamente il nostro paese ha balbettato su una variabile che è decisiva, e infatti la soluzione è stata l'acquisto della casa, quindi le famiglie hanno occupato uno spazio che poteva anche essere di politiche pubbliche con una propria strategia. In fondo è l'uno dei pochi beni patrimoniali che viene trasmesso di generazione in generazione, la casa, quindi anche in questo caso la famiglia dimostra che si occupa del futuro del paese attraverso questo passaggio, e infatti adesso lo stato fiscale va ad agganciare anche questo bene andando a incidere pesantemente su questo fatto, per cui è proprio come una logica un po' schizofrenica nel nostro paese, è come se le famiglie dovessero cantare e portare la croce. Quindi la richiesta forte che è sull'agenda di tutti i sindaci, di tutte le regioni e del governo centrale è riconsiderare la famiglia come un luogo d'assistenza, non come luogo d'assistenza, ma come una risorsa su cui investire, perché come dobbiamo investire sulla capacità imprenditoriale, sui beni architettonici, sui beni ambientali, la famiglia oggi non ce la fa a tener botta. In questi 30 anni le velocità dei cambiamenti, le sfide della globalizzazione sono diventati molto, molto duri, e la famiglia ha tempi di adattamento diversi, per cui c'è bisogno di una nuova alleanza. L'anno scorso il governo italiano ha sottoscritto un piano nazionale per la famiglia dove ci sono molte priorità condivisibili, che si intitola proprio un'alleanza per la famiglia, e quindi è proprio, c'è bisogno di un discorso pubblico. Con chi pubblico. Ha sottoscritto questo protocollo? Ma è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, ci sono 57 azioni, ci sono tutte tranne che il fisco. Perché... peccato che poi nella costruzione del piano non ci siano né tempi né risorse affidate. Ma soprattutto mi dico io, Nicoletta, non so se tu ci hai fatto caso, hai mai letto di questo piano nazionale per la famiglia sui giornali? Giornali che si occupano di tutt'altro, ma di questi temi niente. Quindi colpa anche un po' nostra, che qualche volta affrontiamo male magari certi temi. E Belletti parlava di alleanza, e le famiglie numerose si sono alleate, fanno rete, Giuseppe, quindi vanno a colmare un po' il vuoto e anche quella solitudine in cui, pur essendo numerose, proprio perché numerose, a volte si ritrovano, Giuseppe. Sì, è stato il sogno di chi ha iniziato questa esperienza, Mario Sberna, un sogno nato in un supermercato con due carrelli che guardavano un grande pesce, e i due papà dicevano: non lo potremo mai mangiare quel pesce, mettiamoci insieme. E da questo piccolo incontro è cominciata l'associazione Famiglie Numerose. siamo in 16. E quindi dovreste avere come simbolo o un carrello o un pesce. Come simbolo ci sono quattro figli, sì. Il seno con quattro figli, perché il problema, se è nato guardando un pesce, è nato però da una famiglia che si sentiva unita e sperava di darsi una mano, mantenendo sempre la bellezza dell'unione fra marito e moglie, la bellezza dei figli che ci sono, la bellezza, cioè, non si calcola su quanti soldi hai, ma si calcola sul rapporto che c'è in casa, sul volersi bene, sul darsi, ecco, e questo ha portato ad una serie, all'associazione. L'associazione è partita da questo concetto: diamoci una mano mantenendoci uniti. Mm-hmm. E per darci una mano poi sono cresciute una serie di piccole strutture, sì, per darsi concretamente una mano. E si è andati oltre ogni speranza, perché l'associazione è continuata a crescere. Sì. Eravamo in 300 nel 10 anni fa, siamo in 16.000 e si cresce alla media di 130 famiglie che si aggregano ogni mese. Ma allora si fanno figli in Italia? Insomma. In Italia si fanno figli, in Italia ci sono 112.000 famiglie con più di 4 figli, però c'è stato un crollo perché nel 61 eravamo 3 milioni. Chiaramente, però non siamo una stirpe in estinzione, questo no, non siamo neanche un fenomeno da baraccone. Mi ecco. Piace Belletti, perché mi ha detto, avendo 3 figli, dice: io non appartengo a una famiglia numerosa, ma sono un fiancheggiatore. Ma il tasso di sostituzione è un buon gregario, insomma. No, di beh, queste... insomma, diciamo che bisogna una coppia di adulti per ricambiarsi deve fare almeno due figli. Certo. Il terzo figlio è quello che consente di mantenere il bilancio demografico del paese in equilibrio. Il bilancio demografico del paese e non è una variabile diciamo ideologica, è una necessità per lo sviluppo del sistema paese. Vediamo di fronte a tutte le riforme previdenziali questo tema, noi abbiamo addirittura una piramide rovesciata. Mm-hmm. Demografica. È vero che i figli in Germania sono patrimonio della nazione, votato in Parlamento, loro sanno programmare il futuro, noi italiani no. Non evocherei sempre questi tedeschi. Ci sono un messaggio che arriva, che hanno delle politiche familiari, vabbè, se poi andiamo ancora più in su nel nord Europa, sì, siamo addirittura modelli eccezionali. È che è come se si vedesse la famiglia come un fattore di diseconomia legata solo a codici della gratuità, della solidarietà, degli affetti, e questo è vero, ma la famiglia è anche un'impresa, un soggetto economico. Insomma, per fare famiglia ci vuole orientamento al rischio, orientamento al futuro e capacità di combinare le risorse, che sono tre fattori dell'imprenditoria. Certo. Allora, chi sentiamo? Posso sentire Nicoletta? Alberto da Bari, perché contestava un po' queste cifre che abbiamo dato poco fa e magari gliele argomentiamo meglio. Alberto, buongiorno. Buongiorno a voi. Ci sentivo prima e diciamo che ho avuto un attimo un piccolo sobbalzo, perché dico, ma è possibile? 8.000 euro all'anno per un figlio, io ne ho due, se tanto mi dà tanto, dovrei spendere 16.000 euro in un anno. Mm-hmm. Oddio, io dico, i miei figli sono più piccoli, perché uno ha 9 anni e l'altro 6, quindi diciamo che sono cifre più ridotte, però conosco molti nostri amici, oltretutto dei nostri amici che hanno anche 3 e anche più figli, però che insomma ci dicono che non è esattamente queste cifre. Certo, a meno che... guardi. A meno che a questi figli di questi 8.000 euro non rientrano tutto quello che, tra virgolette... Che riguarda la vita della famiglia, Alberto, le spese di affitto, manutenzione della casa che i genitori condividono con i figli, quindi si sono prese in considerazione 18 voci di spesa, non solamente l'abbigliamento o la scuola, ma tutto omnicompreso. Se vuole magari glielo mandiamo questo studio, vediamo se... Ma magari sarebbe interessante, perché vede, io, i miei figli fanno piscina, quindi va pagata, hanno i libri, ripeto, i libri delle elementari non sono così onerosi le spese come i libri delle superiori o delle medie. Guardi Alberto, però... sa che facciamo? Perché così almeno lei si toglie tutte le sue curiosità, le mandiamo un libro che Francesco Belletti ci ha portato, che è proprio Il costo dei figli, edito dal CISF, e Il rapporto famiglia, quale welfare per le famiglie, a cura del presidente del CISF, che è Pierpaolo Donati, non mi ricordo più se ancora questa carica, Belletti. No, è il curatore del rapporto. Curatore del rapporto, perfetto, per cui magari potrà curiosare tra questi dati. Come a dire, a cuore e denari basta chiedere. Basta chiedere, qua noi apriamo la nostra libreria che accontenta a tutti. Grazie Alberto per la sua testimonianza. Abbiamo forse Raffaella che vuole completare un discorso iniziato sul tema dell'organizzazione dell'associazione. Sì. Sì, volevo dire che si sente proprio, si è sentita l'esigenza di mettersi in rete tra famiglie numerose e questa rete ha generato innanzitutto un'accoglienza, l'accoglienza che va dall'affido all'adozione. Abbiamo moltissime famiglie che hanno bimbi, che hanno aperto la famiglia a questo, e abbiamo anche figli con gravi handicap in adozione. Una rete tale per cui si aprono le case. A Genova ci sono delle famiglie che ospitano famiglie che hanno bisogno del gaslin, dell'ospedale. Anche per l'università si fa rete. Si fa rete per la formazione delle coppie, in particolare la Toscana ha un punto famiglia che si occupa di questo. C'è un progetto Aiutiamoci dove si sperimenta anche proprio la solidarietà in caso di necessità immediate. E quindi tutte queste cose chiaramente fanno le convenzioni che vengono fatte su tutto il territorio nazionale a vari livelli, e chiaramente queste diventano poi un welfare che le famiglie alla fine mettono. Insomma, Deborina, noi un posto lo troviamo in una famiglia numerosa. Dobbiamo andare io e te però insieme, perché io, sì, non ho figli da portare in dote, no, purtroppo, perché come tu sai sono una zia fantastica, ma non sono mamma. Però. Una super zia. Esatto, Deborah. E qua dobbiamo fare una trasmissione su questo. Andiamo ad altri ascoltatori sul tema di oggi, ancora all'800240024, siete in tanti, siete stati in tanti, continuate ancora a condividere con noi il vostro pensiero sul tema della famiglia numerosa e soprattutto sul tema di quello che fa lo Stato per appoggiare la famiglia, che sia numerosa o meno. Abbiamo Fabio da Brescia. Buongiorno Fabio. Buongiorno. Ci dica. Allora, io non penso di essere un egoista. Sono figlio maschio, ho due sorelle. Mi sono sempre trovato benissimo, ho sempre lavorato e tutto quello che ho l'ho avuto per conto mio. Sì. Mio padre adesso è morto da mica tanto, mi ha lasciato indietro una buona dote e non posso lamentarmi. Sì. Però chiedo, tutte queste persone che secondo me per egoismo vogliono avere continuamente figli su figli su figli per fare famiglie, per avere un numero esorbitante di figli, che poi alla fine vanno a ledere anche i miei diritti. Perché? Perché poi questa gente chiede sussidi al comune per avere la riduzione dell'ISE, per non avere la tassa della mensa, per non avere la tassa sui libri, per non avere un sacco di aiuti. Insomma, lei si sente impoverito. Le famiglie numerose, Renzo ci dice, lo impoveriscono e gli danno anche un po' fastidio, perché ha usato la parola proprio questo egoismo. Belletti. Belletti. Esiste questa sensazione nelle famiglie, diciamo, di dimensioni, consideriamole normali? Ma credo che la questione sia un po' la trappola della guerra dei poveri, che quando si tratta di andare a vedere le situazioni che chiedono maggiori diritti o un riconoscimento, gli altri si sentono come minacciati. Sarebbe come se una famiglia di normodotati si lamentasse perché le famiglie con disabili chiedono un sostegno specifico. C'è una condizione oggettiva di diversità su cui la politica, una politica solidaristica, dice sosteniamo chi è in una situazione di diversità. L'idea che poi una coppia faccia per egoismo tanti figli mi sembra controfattuale, nel senso che tanti happy hour in meno, tante vacanze diciamo innovative, oggettivamente lo stile di vita di una famiglia che accoglie molti figli è uno stile di vita di riduzione dal punto di vista dei benefici. In più non è che portino a casa poi così tante risorse pubbliche dalle politiche in campo, bisogna che ci diate credito da casa. Se diciamo che non ci sono politiche di sostegno per le famiglie, ma non solo per le famiglie numerose. Guardi, ci basta organizzare una trasmissione sul tema dei nidi, degli asili nido, delle scuole materne, sì, e già ci capiamo molto anche, chiaramente. Ma pensiamo anche alla difficoltà in banca quando ti dicono dopo 2 anni di lavoro puoi diventare direttore di filiale, però vai a 200 km di distanza. Un padre con 2 figli ci pensa 8 volte, un single senza carichi familiari è molto più libero. Questa è una situazione di oggettivo svantaggio, dopodiché uno è libero di scegliere. Quanti padri avranno sacrificato un pezzo di carriera per restare dentro un sistema di relazioni di cura? Oppure avranno fatto i pendolari. Certo, Felice. Belletti, sì, ha introdotto anche il tema dello stile di vita che ieri ci ha appassionato. Sì, infatti, perché abbiamo notato che le famiglie numerose adottano uno stile di vita che possiamo dire green. Molte, ad esempio, scelgono di non vedere la TV. Abbiamo letto l'articolo sulla stampa, vacanze low cost, cibi dell'orto per chi ha la fortuna di avere accanto alla casa un fazzoletto di terre. Quindi è la nostra decrescita felice, un dicevamo. Concetto... con che va tanto di moda. Deborah. Giuseppe Butturini, anche lei prima ce l'ha suggerita, a microfoni spenti. Sì, a microfoni spenti l'ho detto, ma personalmente ci credo poco a questa storia. Noi uno stile green non l'abbiamo, abbiamo una sobrietà, sì, abbiamo il senso del limite che viene spontaneo, ma non, come dicevo prima, come un dovere, ma come una... come dire, come una condivisione, come una solidarietà che si crea in casa. Cioè, io più che a queste strutture, a queste cose che ci sono, perché in casa nostra anche noi abbiamo un fazzoletto di terra con l'orto, anche noi stiamo attenti, però il centro... Noi scaldiamo la casa con la legna piuttosto che col gas, perché ci quindi siete anche voi un po' bene visto, perché qua dobbiamo parlare con, scusi Giuseppe, ma qua dobbiamo parlare con Raffaella, perché gli uomini sanno poco. Ma tu hai notato cose. Quando parla Raffaella come Giuseppe la guarda con grande amore? Sì. Questo vorrei poterlo raccontare ai nostri ascoltatori, perché solo noi da qui lo vediamo, però insomma. Grazie, abbiamo con di me, è vero, ma lei la guarda proprio come con degli occhi che le illuminano tutto il volto, quindi complimenti. Felice da Vicenza, felice Raffaella anche... non parla. No, non parla, però sorride, no, si è un po' commossa perché noi l'abbiamo osservata. Allora, Felice da Vicenza, buongiorno. Buongiorno. Felice mi supporta un po' nelle statistiche che abbiamo dato prima, perché l'ascoltatore barese dice: ma com'è possibile 8.000 euro per un figlio? Invece Felice, lei ne spende come? Assolutamente sì, non ho una famiglia numerosa, siamo solo due bimbi e siamo in quattro, però confermo la cifra, forse anche contenuta, quella che avevate indicato. Facevo l'esempio prima nella redazione, e solo l'asilo nido privato costa sui 6.000 euro all'anno. Quindi... E confermo, magari faccio anche i complimenti all'intervento precedente, perché è la prima volta che sento veramente delle conferme all'assoluta mancanza di appoggio alle famiglie, ma non solo economico. Belletti promosso, per stavolta. Assolutamente sì, ha riassunto in pochissime parole veramente i problemi che poi ogni giorno e quotidianamente cerchiamo di affrontare, non avendo ad esempio genitori, nonni, eccetera, ed essendo in due, confermo. È tutto molto più complicato. Felice, lo farà il terzo? Credo di no. Va bene, discorso di età. Va bene, grazie molte, buona giornata. Abbiamo Fabio per chiudere, ci chiama da Brescia all'800240024, è lui l'ascoltatore che ha superato la barriera rosa. Fabio, bravo. È caduto, ti è emozionato. Non ce l'avrà fatta cadere, speriamo di no. Andiamo verso le conclusioni allora con il nostro ultimo messaggio rispetto al tema che abbiamo affrontato questa mattina, che avrebbe avuto bisogno forse di altre due ore perché si presta a tanti ragionamenti, tante sfaccettature, ma noi puntiamo ad avere più tempo. Noi vogliamo allargarci e quindi scrivete, sosteneteci anche voi da casa, facciamo un appello. Allora, un'ultima, non lo so, possiamo lanciare un ultimo messaggio anche positivo per chi ha questa vocazione alla famiglia, magari a quella numerosa. Raffaella Butturini, ci affidiamo ancora a lei per un messaggio conclusivo. Non lasciamoci scoraggiare anche dalle intemperie economiche con le quali purtroppo temo che ancora dovremo confrontarci a lungo. Un ultimo messaggio per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. L'ultimo messaggio è che nella libertà di ciascuno di fare le proprie scelte c'è la possibilità di essere felici nella famiglia numerosa e nella famiglia che vede papà e mamma insieme per sempre. Benissimo. Ecco, questo è importante. Dico sempre quando ci si incontra: qual è il segreto profondo di una famiglia numerosa? Il segreto profondo, per un verso, è la paura che i figli hanno. Quale paura hanno i nostri figli? Che papà e mamma si dividano. Per cui la riuscita di una famiglia numerosa è l'accordo profondo, la comunione profonda. E per chi non ce l'ha fatta, ricordiamo che rimane sempre genitori, esatto, per tutta la vita. E che è sempre possibile ricominciare. Grazie alla famiglia Butturini per essere stata con noi, a Francesco Belletti. Nicoletta, domani è il 1° novembre, ma noi ci siamo. Ok. E quindi buona giornata a tutti. Anche a te, Deborah. A presto, a domani. Cuore e denari.